questo mercoledì 6 giugno. I titoli sono tutti declinati sul tema tasse, soprattutto sul buco tasse scoperto, le previsioni errate, entrate, mancano 3,4 miliardi, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, la crisi taglia le entrate fiscali, meno gettito dall'IVA, La Stampa, fisco, mancano 3,5 miliardi. Fisco, allarme sulle entrate, questo è il titolo d'apertura del Messaggero. Per Repubblica invece, IMU, ecco dove si paga di più, buco di 3,4 miliardi nelle entrate. Il Giornale, fallisce la ricetta tasse, Libero, bocciato in economia, e c'è la foto di, o meglio un ritratto di Mario Monti. Mentre il Fatto Quotidiano punta su Banca Bassotti, la vicenda della perquisizione in casa di Gotti Tedeschi. L'Unità, la sfida di Bersani, mi candido. Mentre il Manifesto, codice rosso, 9 milioni di italiani non hanno i soldi per curarsi. Per Avvenire invece, famiglia senza fondi, mancano quasi 3,5 miliardi di entrate fiscali. Questo, diciamo, il tema principale, insomma, le tasse e l'ammanco di 3,5 miliardi, 4,4 per la precisione, sulle previsioni del fisco, le vedremo tra poco. Prima però voglio partire da qualche altra notizia. Intanto, quanti di voi genitori che hanno i figli piccoli si appoggiano all'aiuto dei nonni? E si dice spesso sono il welfare vero, che aiutano le famiglie con bambini piccoli per aiutare i genitori, soprattutto le mamme, a non perdere il lavoro, a magari a fare i salti mortali, riuscire a creare ore e ore in più nella giornata, paradossalmente, per riuscire a fare tutto. Ebbene, sappiate che arriva un disegno di legge per i nonni sitter. Sviluppo, arrivano i nonni sitter e gli incentivi alle microimprese, così titola il Giornale a pagina 4, ma anche sul Messaggero una pagina. La mamma lavora, arriva il nonno sitter, a pagina 15. Del Messaggero, per l'appunto, leggo da qui Elena Castagni, una proposta di legge per aiutare le giovani madri imprenditrici. Presto avremo i nonni sitter, non i soliti nonni pensionati che da sempre vediamo al parco, al cinema, sulla spiaggia mentre ricoprono di cure gelati gli amati nipotini, ma i nonni di cui stiamo parlando sono nonni che sbocciano al tempo della crisi, quando si cerca di rilanciare la giovane imprenditoria. Nonni che ancora lavorano e per il bene della figlia accettano di mettersi in aspettativa fino a 6 mesi, con il vantaggio di non perdere i contributi della pensione e magari guadagnare anche qualche soldo, sempre che la neomamma decida di girare a loro quanto lo Stato le darà. E sì, perché poi l'aspettativa che vale per i parenti fino al terzo grado, l'indennità andrà alla mamma o al papà, insomma, che decide di mantenere il posto di lavoro, durerà massimo 6 mesi fino ai 3 anni del bambino. È un'intesa alla Camera su un testo che prevede anche sconti fiscali. Insomma, arrivano una delle misure anticrisi, i nonni sitter, la possibilità per i nonni, che sono ovviamente al lavoro, di chiedere l'aspettativa e girare poi l'aspettativa, i soldi, l'aspettativa alla madre che così continua a lavorare. Potrebbe essere anche questa una soluzione, che ne pensate? E vabbè, arrivano i nonni sitter. Voglio andare su Libero, che oggi dà in prima pagina una notizia che riguarda una importante e popolare conduttrice televisiva, vale a dire Lilli Gruber. Il titolo di Libero di prima pagina è Abusi edilizi, villa sequestrata a Lilli Gruber. Succede in Sardegna, racconta Gianluca Roselli, una splendida villa sul mare con muratura in pietra, piscina, scivolo in acqua, rimessa per imbarcazioni con terrazza attrezzata, una scala con corrimano, candeliere in ferro battuto che sale fino all'elegante dimora. Insomma, siamo in questa zona tra le bianche sabbie della Cannesisa, in località Torre delle Stelle, un pezzo di costa tra Cagliari e Villa Simius, uno dei posti più incantevoli della Sardegna. Titola Libero, sequestrata la villa al mare, Gruber denunciata per abusi. La Guardia di Finanza, eseguendo verifiche sulle lussuose abitazioni della zona per controllare la situazione tributaria dei proprietari, avrebbe scoperto di costruzioni su spiaggia pubblica private e quindi potrebbe procedere per abuso edilizio. Cioè, a dire che Lilli Gruber ha smentito con una nota dicendo: tengo a precisare come nessuna informazione di garanzia o comunicazione dall'autorità competente mi sia mai pervenuta. Posso solo riferire che le opere a mare oggetto del procedimento a mio carico e appreso da fonti giornalistiche sono risalenti a tempi immemorabili, sicuramente da me non realizzate. Sono divenuta comproprietaria dell'immobile per successione dopo la morte di mio padre Alfred Gruber nel 2001. Insomma, scrive Libero, l'occupazione balneare a suo dire non è colpa sua, ma forse del genitore, se non addirittura del precedente proprietario prima del genitore. Allora, vabbè, sta di fatto che Libero poi mette le foto di Gruber che prende il sole, sequestrata la villa al mare, Gruber denunciata per abusi. Così lo trovate su Libero. Poi voglio dare questa perché dobbiamo, sapete che il mantra dell'Italia ormai è a mia insaputa. Ormai da anni uno si compra, gli comprano le case a sua insaputa, si laurea a sua insaputa, fa tutto a sua insaputa. È la linea difensiva più utilizzata, un po' più ridicola anche, ma anche tra le più utilizzate e più diffuse ormai negli ultimi anni. Allora arriva il curriculum a mia insaputa. Possiamo iscrivere anche questo nell'elenco delle castronerie. Pagina 18 del Quotidiano Nazionale, la vicenda riguarda l'ex assessore della Lombardia Monica Rizzi della Lega, che sarebbe stata rinviata a giudizio per falso da parte della procura di Brescia. No, cioè è stata rinviata, cioè è stata una richiesta di rinvio a giudizio, quindi si esprimerà il giudice una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Brescia per un fascicolo sulla presunta sua presunta falsa laurea. Tace al telefono Monica Rizzi, ma scrive su Facebook su Facebook scrive questo: la verità è che mi è stata notificata l'archiviazione del reato pesante contestato, quello di avere usato una falsa laurea per esercitare una professione non mia. La verità è che resta aperta un'ulteriore indagine su un curriculum allegato a un atto per il quale devo solamente fare precisazioni. Curriculum mai firmato dalla sottoscritta, che riporta date sbagliate e per il quale i miei responsabili d'ufficio hanno già dichiarato e depositato la memoria a come è stato prodotto a mia insaputa. Ebbene sì, un curriculum dunque prodotto dai collaboratori evidentemente a sua insaputa, nel quale evidentemente c'è qualcosa che la procura contesta riguardo a una presunta falsa laurea. Il curriculum a mia insaputa dell'ex assessore della regione Lombardia Monica Rizzi. E voilà, ci sentiamo tra 5 minuti. Allora, per i vostri messaggi il 349-238-6666, che dire, cari ascoltatori, i conti pubblici e le entrate fiscali ieri hanno fatto registrare una giornata con una notizia un po' brutta, no? Un po' particolare, cioè hanno sbagliato a fare i conti. Il gettito previsto è stato sottostimato, gettito sotto le stime per 3,4 miliardi. Ora c'è chi dice questo è un motivo per mettere nuove tasse, no? Perché dovremmo colmare queste stime sbagliate. In realtà non è proprio così. Comunque leggete il Sole 24 Ore, Dino Pesole a pagina 3. Nel documento di economia e finanza presentato lo scorso 18 aprile, il governo aveva stimato per l'intero 2012 un gettito tributario di 496,3 miliardi. Ora, a distanza di poche settimane, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, scomponendo il gettito per quadrimestri, evidenzia uno scarto di 3,4 miliardi rispetto a quelle previsioni, cioè il 2,9% in meno. In sintesi, da 122,5 miliardi stimati si passa a 119 miliardi. Insomma, ci siamo giocati una stima sbagliata di 3,4 miliardi. A tale scostamento contribuisce che cosa? Per gran parte il gettito del bilancio dello Stato con l'IVA in caduta libera del 9,6%, quale evidente conseguenza della recessione. In flessione anche le entrate tributarie degli enti locali, meno 1,2%, e i ruoli, meno 4,5%. Non è certo una buona notizia per il governo, anche se ieri Monti, per la verità in un'intervista uscita a Famiglia Cristiana, quindi presumibilmente fatta prima di questa notizia, ha detto in futuro, ci hanno accusato di essere duri nei confronti dell'evasione fiscale? Cari italiani, sapete cosa succederà in futuro? Saremo ancora più duri. Ancora più duri. Così ha detto il premier Mario Monti. Su questo anche il Corriere a pagina 6 titola: cerchiamo di mettere in sicurezza un paese che è stato devastato. Questo è un altro concetto che ha espresso nell'intervista Famiglia Cristiana Mario Monti. I governi che ci hanno preceduto hanno creato così grandi disavanzi e debiti pubblici che hanno caricato il peso sui italiani che allora erano bambini o non erano ancora nati. Quella è stata la più grande devastazione delle famiglie. Noi ci troviamo oggi a cercare di rimediare a quella situazione. Insomma, Mario Monti che ancora si mette un po' i panni del salvatore, cioè cercare di rimediare a situazioni disastrose create dal passato. Siamo impegnati per l'80% del nostro tempo a rimettere in sicurezza un paese che è stato devastato dall'improvvidenza. Ancora Mario Monti in questa intervista. Insomma, l'idea è questa: salvare una situazione creata con disastri del passato. E non ha tutti i torti, non ha davvero tutti i torti, bisogna dirlo, soprattutto nella politica degli ultimi 20 anni. Tra l'altro però c'è un giallo legato al premier. Allora, c'è un'inchiesta che a molti appare un'inchiesta assurda, ad altri appare un'inchiesta sensata. Sicuramente alla procura di Trani che stanno portando avanti pare un'inchiesta sensata l'inchiesta contro le agenzie di rating, quelle che danno i giudizi A++, A-, no, quelle cose lì. Ebbene, a Trani, la procura di Trani sta indagando da un po' di tempo nei confronti di agenzie di reti, Standard & Poor's, Moody's. L'accusa è: si danno giudizi che poi incidono sui mercati e con questo poi si rischia di far cadere dei governi, si rischia di fare anche cadere gli esecutivi eletti, si rischia di speculare poi sui mercati finanziari, sulla politica dei paesi, si rischia di mandare in rovina magari anche degli stati interi. Ebbene, in questa vicenda il quotidiano Libero ieri ha tirato in ballo Mario Monti, perché Libero ha scritto: ma Mario Monti dal 2005 al 2009 lavorava nel direttorio dell'agenzia di rating che più volte ha bocciato i conti pubblici dell'Italia, vale a dire Moody's. Insomma, quindi eccolo lì il complottone, no? Il sospetto è questo: non è che i giudizi nei confronti dal 2005 al 2009 erano stati dettati anche da Mario Monti per mettere in cattiva luce i governi che poi sono crollati e poi è arrivato Mario Monti. Insomma, sarebbe un complottone davvero incredibile. Intanto che Palazzo Chigi ha dovuto esprimere una nota ieri a dire: non è assolutamente vero che Mario Monti ha fatto parte, cioè ha lavorato, è vero, per l'agenzia di rating, ma in quel periodo non ha assolutamente fatto parte del direttorio che decideva i giudizi nei confronti anche dell'Italia. E però sta di fatto che anche sul Fatto Quotidiano, inchiesta Standard & Poor's, i PM convocano anche Monti, cioè la procura di Trani vogliono ascoltare, interrogare, pare, il Presidente del Consiglio. Lo avevano già chiamato come esperto, ma preferì non andare, fa sapere Antonio Massari sul Fatto Quotidiano. Ora pare che lo vogliano sentire, c'è questa possibilità, lo vogliono sentire come, non so, come cosa, persona informata dei fatti, non lo so. Inchiesta Standard & Poor's, i PM convocano anche Monti. Sul Secolo XIX viene definita a pagina 3 l'ira del premier per il gioco dei rating. Mario Monti replica a Libero, che ha ventilato il sospetto di un suo coinvolgimento nel declassamento dell'Italia da parte di Moody's, una bocciatura che aggravò la già posizione difficile dell'allora premier Silvio Berlusconi. Ma durante il periodo in cui ricopriva l'incarico di membro del Senior European Advisory Council di Moody's e la risposta di Palazzo Chigi, l'allora presidente da Bocconi non ha mai partecipato alla valutazione neppure in via diretta di stati o imprese sotto il profilo del rating. In ogni caso, insomma, questa è la vicenda, anche dai contorni un po' incredibili, che coinvolge il Presidente del Consiglio. Sempre in tema di tasse, Repubblica è certa a questo punto a pagina 7, visto che mancano soldi, visto che le stime sono al ribasso, ci sono questi 3,4 miliardi che ballano, ora sarà difficile scongiurare l'aumento IVA di ottobre, così a pagina 7. E poi il sottotitolo, che sembra ormai una barzelletta, io la chiamo su Twitter da giorni, non per pessimismo, ma perché pare un po' così, la supercazzola, no? Quella della spending review. Dalla spending review, risparmi ancora incerti. Siamo lì, siamo ancora che fanno i calcoli, rifanno i calcoli, prendono le forbicione, rimettono giù le forbicioni, le riprendono in mano per tagliare, poi ci sono le proteste, vogliono tagliare gli ospedali piccoli, ma protestano contro gli ospedali piccoli, vogliono tagliare i tribunali piccoli, accorparli, ma ci sono le proteste contro i tribunali piccoli, le caserme le vogliono vendere da 20 anni, ma non si riescono a vendere, non si sa perché. E quindi risparmi ancora incerti. Ci avevano detto che entro giugno si tagliavano 4,2 miliardi da spending review per evitare e scongiurare l'aumento dell'IVA di ottobre. Se ce la faremo, chi lo sa? Adesso gli risparmi diventano incerti e ottobre ovviamente si avvicina. Intanto una notizia che è stata un po' messa sotto traccia nei vari giornali, ma a mio modo di vedere il Manifesto in maniera giusta la mette in evidenza, addirittura come titolo di prima pagina, col titolo Codice Rosso, ed è questo: è uno studio del Censis. 9 milioni di italiani, quasi un sesto degli italiani, 9 milioni di italiani, secondo il Censis, non hanno i soldi per curarsi, per preoccuparsi e curarsi, e quindi prendere in carico la propria salute, che è una delle, che è forse l'aspetto fondamentale. 9 milioni di italiani non possono curarsi. E beh, Antonio Sciotto ne parla a pagina 2: quasi un sesto degli italiani non possono curarsi, non hanno abbastanza soldi. Un dato sconvolgente viene dall'ultimo rapporto salute del Censis, promosso ieri, presentato al Welfare Day. Un quadro che, insieme ai frutto del cronico stato di disperazione del nostro sistema sanitario nazionale, dei tagli sempre più violenti ai trasferimenti statali causati in larga parte dalla crisi. Insomma, questo non è un dato molto confortante. 9 milioni di italiani, secondo questo studio, non hanno i soldi per curarsi bene. Veniamo alla politica. Allora, D'Alema, che ieri il Corriere accusava essere dietro l'uscita di Fassina, il responsabile economico del PD, che ha detto non è esclusa l'opzione di votare a ottobre, D'Alema ieri ha sentenziato: è una sciocchezza. Pare che Bersani sia infuriato con Fassina, ieri è dovuto andare al TG1 a andare a manifestare sostegno a Monti. Ha detto anche: mi candido alle primarie, che, voglio dire, il segretario del partito che si candida alle primarie sembrava anche abbastanza scontato. Devo dire che Fassina, Stefano Fassina, responsabile economia del PD, oggi sul Corriere della Sera ancora insiste, a pagina 12: sono un po' sorpreso, non ho indicato obiettivi né auspici, ho espresso una preoccupazione e ho proposto di valutare lo scenario B. Lo scenario A rimane il voto nel 2013. Lo scenario B invece è questo, cioè se la situazione rischia di logorare le istituzioni democratiche, se il Parlamento non riesce a lavorare, se c'è lo scollamento tra politica e paese che diventa insostenibile, non si può andare avanti senza una verifica del consenso sulla direzione di marcia. Dunque continua e non mi dimetto. Su Bersani dice: ci siamo sentiti, spero che venerdì in direzione ci sia la possibilità di chiarire. Insomma, conferma di un Bersani molto molto arrabbiato nei suoi confronti. Comunque Bersani ribadisce: il governo Monti andrà avanti fino al 2013. Mentre Gerry Scotti, al quale abbiamo fatto un appello pubblico, ha twittato: non parlo con nessuno. Gerry Scotti, sapete, no? Sarebbe la pazza idea di Silvio Berlusconi, lanciata prima da Libero, e sotto traccia sarebbe la pazza idea coinvolgere Gerry Scotti per rilanciare il Popolo della Libertà o quello che sarà il nuovo centrodestra. Gerry Scotti oggi ha parlato al Fatto Quotidiano. Malcolm Pagani l'ha chiamato: pronto, signor Scotti? Sì, e lei chi è? Inizia così l'intervista e tra poco ripartiamo da questo dopo il traffico. E allora la politica no, Silvio pensi a Ibra. Così Gerry Scotti a pagina 6 del Fatto Quotidiano risponde alle domande di Malcolm Pagani. Signor Scotti, sì, e lei chi è? Sono un giornalista. Ah, un giornalista. Ecco l'inizio dell'intervista. Dice subito Gerry Scotti, io in politica ho già dato, anzi ho stradato. Si riferisce alla legislatura che ha fatto tra l'87 e il 92. Sul tema della mia presunta, molto presunta discesa in campo, ho dettato un'agenzia, sono passati 20 anni, rimpianti per quello stress, quella confusione, le assicuro, non ne ho. Voi non mi conoscete, io preferisco le ferie, la mia poltrona, la vita sedentaria, la pace, gli europei con i piedi sul tavolo, iniziano venerdì se le sembra poco. E insomma, ma dai, c'è già il nome, Italia Pulita, Gerry Scotti, Berlusconi pare che la voglia in campo. Io posso solo dire coraggio a chi ne ha bisogno, ossia a tutti. Comunque Gerry Scotti continua e smentisce categoricamente, dice «Penso che la notizia semplicemente non esista. Il PDL non si butta su nulla, tantomeno su di me». Ma si rende conto che stiamo discutendo del nulla da più di 5 minuti, dice a un certo punto dell'intervista Gerry Scotti a Malcolm Pagani del Fatto Quotidiano. E poi fa, ecco, il vero clamoroso errore di tutta l'intervista di Gerry Scotti è questo. Mi inquieta la possibile partenza di Ibrahimovic al Paris Saint-Germain, dico a Berlusconi di tenerlo. Ecco, andava bene fino a qua, poi il clamoroso errore, sanno tutti che la vera rinascita del grande Milan passerà solo per la vendita immediata di Zlatan Ibrahimovic. Comunque, Gerry Scotti smentisce, prende anche un po' in giro quello che avrei voluto fare nella vita. Il vero lavoro è che cosa? Ce lo dica, non stiamo nella pelle. Il maggiordomo del Papa. Dice sì sì, neanche un po', non scherzo, ma temo di essere in ritardo abissale. La politica no grazie, ho già stradato. Così Gerry Scotti pare faccia tramontare l'idea pazza. Sta di fatto che però Silvio Berlusconi qualcosa dovrà fare, anche il Corriere della Sera, pagina 15. Tanto che c'è la grande paura del Popolo della Libertà, Berlusconi che fa un altro partito. Non si capisce cosa farà, cosa non farà. Sta di fatto che qualcosa succederà all'interno del centrodestra, c'è l'attesa di qualcosa che accadrà. Però la notizia politica, secondo me, del giorno, e comunque di un certo modo di intendere la politica, è quello che sta succedendo all'autority, all'AGCOM, l'autorità per le comunicazioni, e così anche per l'autorità garante della privacy. C'è il rinnovo delle cariche. E ahimè, dispiace dare ragione, ma essere dalla parte di Marco Travaglio per il secondo giorno consecutivo, quando nel Fatto Quotidiano, nel suo editoriale di prima pagina, scrive oggi: chiamiamo le cose col loro nome, i maneggi per nominare i 5 nuovi commissari della AGCOM e i 4 della privacy sono il più vergognoso assalto alla diligenza mai visto nella già ignobile storia dell'italica lottizzazione partitocratica. Questo è l'inizio del suo editoriale di oggi, Agicommedia all'italiana. Effettivamente è così, guardate anche sul Secolo XIX, pagina 7. Poi parlano tanto di merito in Italia, l'arrivo del merito, la meritocrazia, eccetera. Bisogna allargare al merito, bisogna scegliere in base ai curricula professionali, le qualità, eccetera. Cari italiani, quello che sta andando in scena sulla nomina, che forse arriveranno oggi, delle autorità delle comunicazioni, sono la più bieca lottizzazione della, neanche la prima repubblica, della primissima repubblica italiana. La grande abbuffata dei partiti, PDL, PD, UDC e governo, piazzano i loro uomini, li stanno piazzando così, in base alle vecchie lottizzazioni, 2 del PDL, 1 del PD, 1 dell'UDC, 1 della Lega, alla faccia dei tecnocrati, scrive a pagina 7 il Secolo XIX con Sonia Oranges. Alla faccia sulle nomine per l'AGCOM, il garante della privacy, hanno fatto a modo loro, il solito, accordi sottobanco, il bilancino degli equilibri politici, curricula o non curricula, che pure sono arrivati copiosi, come da richiesta dei presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani. Stamani, a mero di sorprese nel segreto dell'urna, il voto di Camera e Senato sarà già scritto. Alla GCOM andranno 5 consiglieri, 2 indicati dal PDL, 1 dal PD, 1 dall'UDC e il quinto indicato dal governo, che dovrebbe anche tenere la presidenza. Già in questa formazione si leggono in trasparenza gli accordi. Il partito del Cavaliere ha rinunciato a una sedia in Rai a favore della Lega, ne ha guadagnate però 2 alla GCOM, che dovrà occuparsi di questioni sensibili anche per Silvio Berlusconi. Cioè, avete capito, proprio il bilancino: io ti do una poltrona al CDA della Rai, la do alla Lega, però devo tenere 2 poltrone alla GCOM. Ecco, questo quando poi vi racconteranno che si cerca la meritocrazia in Italia, fatevi una sonora risata e guardate e leggete poi questi articoli. Oh, siamo quasi in chiusura. Che voglio segnalare? Vediamo che cosa c'è da segnalare. Beh, c'è l'inchiesta che coinvolge ancora Gotti Tedeschi. Perquisita la sua abitazione, ex presidente dello IOR, che è stato cacciato dallo IOR qualche giorno fa. Oggi pagina 10, caccia a carte. In realtà la vicenda non riguarda per nulla il Vaticano, anzi Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini a pagina 10 del Corriere della Sera raccontano che i carabinieri del NOE, il nucleo operativo, sono entrati nella sua casa a Piacenza all'alba alle 5.30, cercavano in carte che gli sarebbero state affidate a Gotti Tedeschi dal suo amico Giuseppe Orsi, amministratore di Finmeccanica, della holding indagato per corruzione internazionale. Quindi Gotti Tedeschi, che non è indagato, è stato sentito infatti senza l'avvocato, perché si cercavano delle carte che gli avrebbe affidato Orsi. C'è un retroscena tra l'altro di Andrea Tornielli, che è il vaticanista della Stampa, che sulla Stampa racconta però quella che sarebbe stata la reazione a pagina 11 di Gotti Tedeschi. 5.25, Ettore Gotti Tedeschi con la valigia in mano scende di casa per partire verso Milano. Incontra 4 uomini che lo aspettano, sono gli uomini della finanza. Il maresciallo infila la mano della giacca e avrebbe detto a questo punto Gotti Tedeschi: ho creduto che fossero venuti a spararmi. Che, se fosse vera, confermata questa frase, uno dice: beh, insomma, è tranquillo lavorare per lo IOR in Vaticano. Cioè, ho creduto che fossero venuti a spararmi. Questo avrebbe detto Gotti Tedeschi. Va bene, ci fermiamo qui e poi torneremo sul tema rifiuti, sul quale ci sono tanti articoli, li approfondiremo più avanti, dopo GR24.